Economia in Europa. In collaborazione con Euronet. La consegna del premio Nobel per la pace all'Unione Europea. Il risultato del buyback per tagliare il debito della Grecia, che ha ricevuto l'ok definitivo dell'Eurogruppo all'esborso da qui a fine marzo di 49,1 miliardi di aiuti. Giovedì 13 dicembre è stata una giornata europea fitta di impegni per il presidente del Consiglio Mario Monti in viaggio a Bruxelles. A fine mattinata ha tenuto una conferenza stampa congiunta con il presidente della Commissione UE, José Manuel Barroso. Nel pomeriggio è poi intervenuto alla riunione dei popolari europei che ha anticipato l'inizio del Consiglio europeo. Sono questi i principali argomenti della settimana al centro di questa nuova puntata di Economia in Europa. Lunedì 10 dicembre è stato consegnato ad Oslo il diploma del Nobel per la pace 2012 al presidente del Consiglio europeo Van Rompuy e al presidente della Commissione europea José Manuel Barroso e la medaglia d'oro al presidente del Parlamento europeo Schulz. La platea per la cerimonia comprendeva anche il premier italiano Mario Monti ed il presidente della BCE Mario Draghi. Ma andiamo ora ad Atene. Il buyback per tagliare il debito della Grecia ha raccolto adesioni per 31,9 miliardi di euro, più del previsto, ma per farlo Atene ha dovuto pagare agli investitori un prezzo del 33,8% maggiore di quanto pianificato. Il risultato è che il Fondo di Salvataggio Europeo dovrà sborsare 1,29 miliardi in più rispetto ai 10 pianificati per aiutare Atene a ritirare quei titoli dal mercato. Il buyback serve a contribuire ad un articolato pacchetto di misure di alleggerimento del debito pubblico ellenico, deciso dall'Eurogruppo anche per convincere il Fondo Monetario Internazionale sulla sostenibilità dei conti della Grecia e così a proseguire il programma di aiuti. Nell'Unione Europea è in atto una guerra fredda finanziaria e sui conti tra i paesi con la AAA e quelli del Sud Europa. Lo pensa il leader dei socialisti greci Evangelos Venizelos, per il quale in questa fase storica c'è una grande distanza tra questi due gruppi. Dobbiamo prenderne atto, imparare la lezione per il futuro dell'idea stessa di Europa. Venizelos, ex ministro delle finanze, ha rivendicato la decisione del suo partito di appoggiare le decisioni difficili storiche prese sull'austerità. Su tutto questo sentiamo Valeria De Rosa, al microfono di Sebastiano Barisoni, mercoledì 12 dicembre. All'indomani, l'Eurogruppo a Bruxelles avrebbe dato il via libera alla nuova tranche di aiuti da 34,4 miliardi di euro. Il buyback è andato bene, è stato un successo, almeno così l'hanno descritto non solo i media della Grecia, ma anche i ministri che abbiamo incontrato in questa missione, lo stesso Samaras questa mattina. Il buyback ha oltrepassato il target che era di 30 miliardi, si è attestato a 31,9 miliardi. Di euro, però la Grecia ha dovuto sborsare più soldi, erano previsti 10 miliardi, ne ha sborsati oltre 11 perché ha dovuto pagare un prezzo aggiuntivo rispetto a quello che si era prefissato. Questo diciamo aveva generato qualche dubbio sull'esito dell'Eurogruppo di domani, perché il Fondo Monetario Internazionale poteva avanzare dubbi e criticità su questo esborso ulteriore e quindi bloccare tecnicamente la tranche, che come ricordavi tu si aggira intorno ai 44 miliardi di euro, e che è fondamentale per la Grecia in questo momento, perché hanno una crisi di liquidità che è stata sottolineata da tutti i ministri e da Samaras questa mattina, il quale ha detto: con questi soldi che arriveranno il nostro primo obiettivo è quello in qualche modo di intervenire proprio sulla liquidità, in primo luogo ricapitalizzando le banche che hanno bisogno di 24 miliardi e poi cercando anche di saldare tutti quei debiti che la pubblica amministrazione ha con i creditori. Venizelos, non avendo incarichi diretti nel governo, è stato ha espresso un giudizio che è stato un pochino più critico nei confronti dell'Europa rispetto a quello espresso dai ministri che abbiamo incontrato in questi giorni. Sentiamolo. It's very difficult to convince the public opinion. È molto difficile convincere l'opinione pubblica della necessità di adottare misure di adeguamento finanziario così pesanti, perché per qualsiasi cittadino è più ragionevole implementare politiche anticicliche. Il problema principale è che servono capitali, altrimenti è impossibile portare avanti politiche simili. Le conseguenze come la recessione e la disoccupazione sono assolutamente negative. Storicamente la Grecia è il laboratorio per studiare le conseguenze di questa politica. Per l'Unione Europea, i leader e la società europea è fondamentale studiare bene cosa sta accadendo. La Grecia non è l'unico caso. Questa è una formula spesso usata dal Consiglio europeo e dall'Eurogruppo, ma la Grecia non è un caso isolato. Abbiamo la stessa situazione in Portogallo, in Spagna, paesi dove non ci sono solo problemi di coesione sociale, ma anche di coesione geografica dopo l'applicazione di programmi così duri. After the implementation of a tough program of fiscal adjustment. Come ci si aspettava, il giorno successivo l'Eurogruppo ha dato l'ok all'esborso, da qui a fine marzo, di 49,1 miliardi di aiuti alla Grecia. Immediatamente nei prossimi giorni, ha assicurato il presidente dell'Eurogruppo Jean-Claude Juncker, verrà effettuato un primo esborso da 34,3 miliardi, di cui una parte andrà per la ricapitalizzazione delle banche. I restanti aiuti verranno suddivisi in ulteriori tre tranche, il cui esborso avverrà tra gennaio e marzo, in parallelo all'attuazione delle misure chieste alla Grecia. Anche il premier italiano Mario Monti ha espresso soddisfazione per il via libera da parte dell'Eurogruppo alla nuova tranche di aiuti ad Atene. Sentiamo. Voglio anche esprimere soddisfazione per le decisioni dell'Eurogruppo di concedere una nuova tranche di assistenza finanziaria alla Grecia e questo è anche un riconoscimento attraverso una misura concreta della solidarietà che esiste accanto al principio importantissimo della responsabilità nella Eurozona e nell'Unione Europea ed è un riconoscimento degli sforzi molto grandi compiuti dal governo e dal popolo greco. Giovedì 13 dicembre è stata una giornata europea fitta di impegni per il presidente del Consiglio Mario Monti in viaggio a Bruxelles. A fine mattinata ha tenuto una conferenza stampa congiunta con il presidente della Commissione UE, José Manuel Barroso. Nel pomeriggio è poi intervenuto alla riunione dei popolari europei che ha anticipato l'inizio del Consiglio europeo. Mario Monti non ha risposto ad una domanda su una sua eventuale candidatura nelle prossime elezioni. Sentiamo. Non ho nessun commento da offrire, non sarebbe comunque il momento, sono impegnato ancora per qualche tempo, per qualche breve tempo nella condotta spedita a compimento di ciò che il governo deve ancora compiere e non sarebbe il luogo per considerazioni del tipo di quelle su cui lei mi interroga. E ora sentiamo il presidente della Commissione UE, José Manuel Barroso, nella conferenza stampa con il presidente del Consiglio italiano, Mario Monti. La Commissione europea accoglie con favore le ambiziose riforme dell'Italia e l'agenda per il consolidamento dei conti. Nel corso degli anni sono state prese misure significative per tagliare il deficit eccessivo e per affrontare il debito pubblico. Progressi importanti sono stati compiuti per aumentare la credibilità dell'Italia e potenziarne la crescita. E gli effetti si vedono già sui costi della finanza. Per esempio, i tassi sui titoli di Stato italiani sono scesi ai minimi dal 2010, un risultato legato alla credibilità del governo italiano e alle misure prese. Sono segnali incoraggianti che mostrano che la fiducia sta tornando sulla capacità dell'Italia di risolvere i propri problemi. Lasciatemi lodare Mario Monti e il suo governo per questi traguardi. Spero che l'Italia continui in questa direzione, perché è la precondizione per far tornare la crescita. Le elezioni del 2013 non devono essere una scusa per rallentare l'impegno sul fronte delle riforme e del consolidamento dei conti. E non c'è ragione di credere che la colpa della difficile situazione attuale sia imputabile ad altri, e che ci siano soluzioni magiche. Non c'è infatti alternativa alle riforme e al consolidamento. Questo vale per tutti i paesi, Italia inclusa. La Commissione sosterrà l'Italia nel suo cammino perché abbiamo bisogno di un'Italia forte e stabile in Europa. Sempre giovedì 13 dicembre, Barroso ha inoltre riferito di aver parlato con Silvio Berlusconi. Sentiamo. Yes, I spoke with Mr. Berlusconi. Sì, ho parlato con Berlusconi. Lo conosco da tanto tempo. Gli ho parlato ieri nel primo pomeriggio. Non racconterò i dettagli perché era una conversazione privata. Ho detto a lui ciò che ho detto qui, l'importanza di un'Italia stabile, l'importanza di mantenere l'Italia sulla strada della stabilità e delle riforme. È fondamentale non solo per l'Italia, ma anche per l'area euro e per l'intera Unione. Questo è ciò che ho espresso molto sinceramente a Silvio Berlusconi. E per questa settimana con Economia in Europa è tutto. Economia in Europa. In collaborazione con Euronet.